facendo un attimo di bianco che deve fare in corso. E che modo è stata un'altra cosa, stiamo regolando una cosa, ci sono un po' riuscito, Claudia. Ti ho sentito poco fa con una radio diversa dal solito, che attesa. La stavo prendendo. Io spero che. Aspetta un attimino che è detto qua, aspetta cosa c'è, questa cosa cos'è? Allora aspetta un attimino, Claudia. C'è il microfono normale? No, il microfono normale. Adesso no, no, ma ce l'ha lei, il bip, l'eco, la radio ce l'ha mi. No, no, no, il bip mi interessa. È la tonalità microfonica. No, è l'eco suo, è quel preside famoso che conosci tu. Capito, proprio. Ed era. È aperto, non da saliva di watt più, e l'ho messo a 10 watt, dai, 10 watt e modulate sono 15, però arriva anche a 50, però a 50 va in saturazione. Ma la radio adesso cos'hai chiuso? Mettilo come poco fa. No, non ho toccato nulla, però questo è un altro baracchino adesso mi. Ah, ma è il presidente questo. C'è il preside, ma non quello che stavo parlando prima, con Pinochet era un altro. Capito, ma ti ho detto a questo presidente, cosa hai toccato? Come fa quando hai. Quando c'era il bip, la radio era più forte. Mi adesso te lo faccio vedere cosa ho toccato, allora mi aspetta. Ho messo l'eco, l'eco suo, l'amplificazione che c'era lui incorporato dentro. Già vabbè. Non è chiaramente a livelli. Dell'altra radio, però già va bene. Sì, ma la radio normale, adesso abbiamo messo anche il mixing, no? E solo non sono riuscito a rimettere in sesto, come si chiama, la parte dei canali sopra. Qua sono riuscito a farlo andare. Ma l'hai resettato come ti ho detto io? Non so neanche come farlo, non l'ho capito. Io ho aperto e guardato dentro, ho toccato le. Che cosa ne fatti? Che c'ha dentro? L'ho girata appena e ho visto saliva picchi, ci saliva subito il coso, dai. Arrivava, si girava, arrivava fino a 50 watt. Vabbè, però stai attento che non abbi toccato troppo, perché quindi ti va in protezione sicuramente. Ok, no, lì c'è un sistema di reset che praticamente dove c'è il tasto funziona. E poi c'è un altro tasto da pigiare che non mi ricordo se è quello delle memorie dei canali oppure il coso, come si chiama, il clear, dove c'è scritto clear, non me lo ricordo Gigi, però c'è una posizione dove vai a resettare la radio e quindi torna tutto a zero e poi ti rifai i settaggi che ti devi fare. Claudio, non l'ho portato, ma c'è tre finali in questo, come 69, di quelli da, c'è tre finali di quelli da 10 watt che avete fatto, guarda, mi servatevi questo, di quello che c'è nell'8001, ne ha tre addirittura questo, l'8001 ne ha uno, questo ne ha tre dentro, se lo tieni da dentro, c'è il coso suo, la regolazione dei watt suoi, adesso al massimo io l'ho portato a 10 watt. Capito, non l'ho portata a 50 watt come fa lui di solito, l'ho messa a 10 watt il massimo, mi capito. E allora già va bene, lascialo stare così, stai andando benissimo alla grande. Ti ripeto, non ha la forza di quello che stai usando poco fa, però in linea di massima segnale ottimo, radio buona, non c'è problema. Claudio, poco fa c'era, già lo sai, tu cosa per parlare con Pinochet, cosa c'era sotto, scusami. Claudio. Già ho visto il segnale, già l'ho visto. Ho visto che stavi dando gas, ma è buona anche questa, in questa 9.15, 9.20 modulato, l'altro era oltre 9.30, quindi già va bene. Perché stavo facendo le prove prima. Allora puoi lasciare sia 5 watt che 10 watt. A un fatto e mezzo non ti capisco, è tutta distorta la modulazione. Sì, perché più abbassi il radio, e più aumenta il radio, capito? E vai se li frutta, capito cosa succede. Comunque, niente, questo è quel preside famoso, se riesco a rimettere, come era prima, che sarebbe stato solo il canale normale, cioè il canale normale, FM e base laterale, posso andare qua, e V e basta. Te l'ho detto, bisogna fare il reset. Bisogna fare il reset, capito? E vedrai che torna alla normalità senza nessun problema. E vabbè, guarda, è talmente silenziosa, Claudio, questa radio che è una cosa... Ma silenziosa, sì, vuol dire silenziosissima. Ehi, ehi, già va bene. Chi c'è rimasto qua la canale? C'era Luca e Falchetto ha fatto... Però attenzione, Claudio, dicevate, modulate arriva quasi a 18 senza fischiare, faccia picchi di 18, E già si vede qua, lui, già si vede qua, c'hai il picco di modulazione molto alto, quindi sicuramente quel picco di modulazione lì è perché c'hai la potenza da 10 a 18, quindi sono 8 watt in più e ti porta su... ancora il segnale. No, va benissimo, non c'è problema. Senti, no, ho provato a girare la mano schiacciando la portante, ti dà 50 watt. Va sopra 50, chiusi, tutti senza parlare, girando da dentro. Va bene, non c'è problema. Luca non risponde, Falchetto. Che sai, stavo facendo un attimo di bianco. Positivo, va bene. E più un certo lo stesso, gli amici di Porto Torres dove sono andati a finire? E quelli stiamo imbarcando vedendo Barri Borghi, Danila e Cos e Roberto. Il rimorchio guida Dalia. Dalia sì, è una delle più anziane lì, autista di Fara, mi dicono dello Fara, è una delle più anziane, penso che sia la più anziana che c'è lì guidando. Ho già visto. Già è bello che anche le donne guidino quei vizi, va bene, no, pensavo che era in vettura io, capite? No, vedo pesante, se per risolvere questo problema ci hanno provato in tante di queste stazionali, queste antenne, tutte le macchine ce l'hanno precisa, gemelle, cose nella macchina sua non va, non c'è niente da fare, boh, infatti gli hanno controllata già tante volte, già ne ha avuto io. Non ho avuto mai tempo di controllare io questa antenna. Se non va tu sai qual è il problema, no? Evidentemente c'è qualche parte resinata proprio nell'aggancio, nel posto in cui magari è stata messa la staffa, c'è qualche parte resinata e quindi chiaramente va in dispersione l'antenna, non ha appoggio di massa, e allora l'unica cosa sarebbe portare la massa da un'altra parte oppure cambiare addirittura posizione d'antenna, è il problema risolto. Sì, ma se tutte le altre macchine nuove come la sua, tutte le altre macchine dice non hanno stazionale, va bene, le antenne sono precise identiche, comprate precise identiche, no, nella sua c'è così, però adesso dice se accende addirittura la lampadinetta rossa delle stazionarie quando schiaccia. Ho provato a registrare lo stilo, a fare qualcosa sullo stilo, si agisce prima lì, prima di toccare qualcosa, altrimenti può essere anche l'antenna difettosa che all'interno della carica c'è qualcosa in corto, non è la prima che succede, c'è qualcosa in corto, qualche filo che tocca da qualche parte e le crea questo problema, quindi lavorando cortocircuitata, non lavorando a massa sulla carrozzeria, l'antenna non esce il 50%. Sì, perché non è questione di baracchino, non so se mi ascolti, lì bisognerebbe bisogna smontarla e vedere se è tutto a posto l'interno della massa, dopodiché riprovare a cambiare posizione, perché può darsi che nella tua macchina, anche pur risaputa degli altri, durante la costruzione ci sia qualche pattina di resina proprio lì dove tu hai messo la staffa, e che quindi nessuno se ne è accorto, nessuno lo sa, e ti crea questo problema. Quindi la prima cosa da fare è provare se lo stile è a posto, dopodiché provare a spostare l'antenna in un'altra posizione. Io non la sento. Dani, aspetta, abbiamo capito niente, sei molto bassa. Ma che detto, c'è una voltura, c'è un problema di massa. Prova una treccia, ma prova a mettere fargli una treccia, che a volte non abbia massa la carrozzeria. Ma dove avete attaccato la staffa? È la mia, era la carrozzeria o in resina? È positivo, ma comunque Gianni l'ha accorciato anche lo stilo a Gianni, no? Sinistra, che dovrebbe andare a sinistra, l'antenna, a sinistra no, c'è un problema. ed è messa nella stessa posizione, stessa altezza, tutto a misura giusta, non fa, non va, non so per quale motivo. Infatti io, se mi dice la testa, la testa lì va bene, in quella posizione lì, o c'è qualcosa che la disturba, non lo so. Lì, a destra va bene, a sinistra non va bene. E allora non lo so, che allora è un problema al baracchino. No, ma perché il baracchino? Perché poi il mio baracchino, montando nella loro macchina, non ha problemi. Mi hanno detto che gli stazionali ci sono, ma che mi hanno detto, tu vedi anche qui, io sempre vostro, con i baracchini degli altri, anche a loro escono le stazionali. Tu sicuramente hai una segnale di... Beh, ho capito. Ma la capota è la mia e la tua? Che brutta, ti voglio, è originale quella. la cosa bella è quella. Sono più tranquilla io, dai. Non sono così fissata, solo che sta facendo freddo, l'ho messo in moto l'altro giorno, ma sto uscendo poco, sto lavorando spesso anche di domenica, capito? Ma sai, mi sta squillando. Ehi, dai, perché cilindra stai quella lì, dai? 600. Altra invece? 600. Appagappa. Ma vai anche a rasoni tu, dai. Sì, certo, sono andato a Telti, Bonorva, Butti di notte, Ittiri, Oschiri, ne ho fatto parecchi quest'anno. Pagato. Ma ne porti una alla volta, ne guidi? Ma no, sono sempre la nuova, la vecchia è sempre parcheggiata, non la do perché ci sono affezionata, che me l'aveva scelta un mio amico che è morto e non la voglio dare per quello. Ma guarda, mi hanno telefonato anche ieri se la volevo vendere, ho detto di no. È positivo, positivo. Tranne che tua sorella non ci va in moto. Ma mia sorella, assolutamente, ma no, col marito, dai. Col marito ci va, perché mi sembra che mia madre abbia l'opposto di te, tua sorella. Posso di me, ma hanno un altro tipo di moto, sì, ci va, non tanto, non è che le piaccia più di tanto, però se ci deve andare ci va, però è l'opposto, lei è completamente diversa. Gappa. Andate, le mie frazioni sono Dani. A me, dico la verità, piace più la vettura, eh. Io la vettura, a meno la guido è meglio, è proprio non mi piace. Ma mi scoccia anche guidare la macchina, a me piace andare in camion, in moto è la cosa che mi piace di tutti. Sì, vai per lavoro già ci fai in macchina. La macchina proprio perché è per costruzione, se no se la guidano gli altri mi fanno solo un favore. Lo so. Comunque non mi fanno mai passare dentro l'amore, devo fare sempre la circolazione io per andare ai diritto, eh. Io posso passare, vedi invece. Lo so, mi faccio la residenza, vabbè, non ci sto quasi andando più a caricare, non sto facendo più nessuno blocchetti. No. Poca vendita c'è. Positivo, dai. Quasi sempre scaglio. No, domani no, domani c'ho Ulpia invece, vedi, domani c'ho Ulpia. Però che ti lo so che c'è dalla mattina, mentre ad esempio a Mario e a qualcun altro li vedo di più il pomeriggio. Loro forse rientrano prima, così tu dici. No, tu stai prima di mattina, loro li incontro dopo. Ma me li incontri prima, loro dopo, così. Loro escono più tardi e arrivano prima di me. Sono a nonno perché sono 38 anni che modulo letto c'era. Sì, no, perché se va alla fiera io voglio un capri 2, devi girare la fiera fino a trovarmi quella radio. Il prezzo lo ho fatto io, una sessantina di euro posso pagare. Perché sto trafficando, c'era un articolo sul giornale l'altro giorno, c'era questo di Posto Maggiore, c'era Giulietta di servizio che avevano con Cusiga, con un radio telefono l'ha comprato, le vado a trovarlo a vedere che radio telefono c'ha dentro, a vedere se posso procurarne qualche di uguale, da già ne so io come prenderli. No, perché l'avrei comprata io quella macchina, ho letto, ecco, ero nell'arma, come la stavo cercando e mi hanno detto che non ce n'era, non lo so lui come ha fatto a entrarne in possesso. Buono, questo non te lo so dire. Questo non te lo so. Dimmi una cosa, forse tu non mi hai mai ascoltato con questa radio, l'ho tolta dentro il mobile. L'ho tolta dentro il mobile questa radio qua, capito? Non so come mi stai ascoltando, Ok, di quanti posso dire qualche giorno vengo a trovare i tuoi mobili. Una meglio dell'altra, Tu non sai niente, ma c'è tante cose, tipo la cavicchi da a Claudio, non so di nuovo, sto scherzando di no, c'è degli apparecchi veramente belli e comprensibilissimi, solo che tu anche sai un attacco che il supermercato, capito, non li puoi lanciare come vuoi, però non scherzi neanche scendo con pochi vate. E positivo, sta andando, dico la verità, no, ho fatto un po' di regolazioni prima, per farlo girare da un po', dai, no, sono 10 watt, perché arriva anche a 50 watt questa radio, però c'ha 10 watt e un picchio arriva a 18 quasi, l'eco è suo, ce l'ha lui corporato, lo posso togliere, devo trovare un altro sistema che mi è sparito e lo devo ritrovare, è una radio silenziosissima. C'è quasi tutto, perché è una radio completa di tutto, di tutto si può dire. Però mi è salita una cosa che non so, per essere fatto qualche codice, qualche cosa, e non c'ho più i canali sopra, sotto, le vocali, uscivano le vocali A, B, C, D, e potevo andare dove volevo, capito? Ok, sì, ma senz'altro, con la canalizzata, no. Io, diciamo, che la radio... preferisco sempre, io adesso sto usando la ICOM, è bene che tutto quello che fa, però nei baracchini diciamo che ci si guasta meglio, non lo so perché, adesso sta entrando anche la febbre a Claudio, ogni tanto ne porta un paio, e quindi sono contento, no, non so, mi sembra che la fiera sia a Genova, confermi. Sì, mi pare aver sentito che è a Genova. Sì, perché poi aspetta, lo fanno anche un altro a Genova, no aspetta, mi pare un altro posto. No, Genova, no, non mi sembra Genova, no, me l'ha detto, aspetta un attimino, non è Genova. Adesso non ti vuole dire ma non sono sicuro che sia Genova, mi pare che ho sentito un altro nome io. Non Manto, non Verona, Verona, può essere Verona. Ma no, io sembro capito Genova, mi sembra, no? Non sono sicuro, mi sono messo in un ambito, però mi suona il Genova, non ricade anche vicino a farsi mia moglie, ma come si fa il capri 2 luglio per Natale, come regalo di Natale? Ma detto che c'è il coso, ma quello volta non va bene, non va bene, guardi che da poco ho trovato quanto c'è in soffitta da babbo, tutte le roba che rimaste in scatole, non sbloccata, no, da pezzo per pezzo non c'è, proprio buttato via per sbaglio durante la gioco all'epoca. Ed è una cassata, un baracchino che è una cassata, magari anche il Walter ce lo può avere, perché come ce l'ha tutto già. Sono dei canali come quelle radio negli anni 60, cioè 5 pulsanti come quelle radio che cambiavano la sintonia lì. È una cassata, ma ormai me l'ho piccato in testa. Positivo, positivo. Poi ne ho lavorato una io a coso a Walter, aspetta quanti canali aveva mi sembra 3, ma può essere 3 canali o 6 canali, aveva 3 canali o aveva 6 canali, sta di tutto, ma di quelli proprio in miniatura ora se ce l'hai tu qualche radio di quelle, ma non ne so di quelle, però quelli a 34 canali forse ci ce l'ha. Questa ne aveva tre canali o sei canali ce l'aveva. Mi ha fatto un amico della verità e provo a darlo a, Walter, perché Walter lui ce lo voleva mettere in camion, però non andava bene, però era bella funzionante, il microfonino suo, certo quanto ci aveva. E l'ho dato a Walter, e gli ha dato un'altra radio per mettersela in camion, un baracchino per mettersela in camion, in cambio. Guarda che c'hanno quelle cose in gomma, che sono celesti metallizzate, le grandi, questa invece questa è la piccolina miniatura era. Se tocca il micromini è dato a 6 canali, tira di là, se tocca il micromini non ce l'ha avuto anche quello. Poi anche io l'ho generoso all'epoca lì, e un tocca il micromini che gli hai dato tu. Ma non tocca, non mi veniva il nome, stiamo dicendo che c'è il porta in gomma, è quello il più grande, e io ti volevo dire quello lì. Adesso per quanto volevo dire, erano 6 canali o 3 canali? Cos'era? 6 canali, giusto? 6 canali c'era e anche a 23 canali, mi è andata così. Poi il 2024 ce l'ho quello che è, diciamo, carta da zucchero con la pernice martellata, già ce l'ho quello lì. E io ne avevo poi, quando mi ero arruolato, capito, da tempo, il capito è solo, ve l'avevo conservato lì, da conservarlo è stato buttato, perché in qualche scatola, quando mamma ha fatto la casa nuova qui, ci siamo traslocati nell'82 lì, e magari è stato buttato nella scatola in mezzo a tutta la roba che non abbiamo portato, non mi rendetto, ma l'avevo, hai capito, e niente, però lo sto cercando. Sicuramente Claudio mi ha detto che se questo signore anziano la fiera c'ha di queste cose, io penso che ce l'abbia, se lo cerco la fiera lo trovo. Caparoggio, caparoggio. Io guarda, adesso, ma poi sono 6 canali, cosa ne fai? Starà a tenerlo per coso? E per quello. Ha detto, ma 6 canali, come fai? Arriva, perché 5-6 sei arrivato, non c'è almeno nei 10, nel 20. Capito? E allora fai il cambio, lui ci fa collezione, Walter, e ti fai un baracchino a 40 canali, e così è stato, gli ha dato un baracchino a 40 canali e gli ha dato questo toccare, capito? Sì, chi fa collezione lo accetta più di un milione di baracchini, io ho fatto, mi ricordo a chi, ce l'avevo il micromini a 6 canali, però era un vatio di potenza, si poteva aggiungere il transistor, si poteva aumentare a 5 watt, cosa che non avevo aumentato, l'ho abbandonato perché ero affascinato dalla sua raffinatezza lui, hai capito? E niente, poi anche l'altro che ti sto dicendo, il capitolo ne aveva 5 di canali, cioè aveva 2 quarti per ogni canale, era il fondamentale, era portato il fondamentale, quindi un quarto per trasmissione o precisione. Però io gli avevo fatto fare una porzione esterna, e a poco giro mi comprato il quarto, l'avevo guardato tutto, andava alla grande, poi quando mi ho preso una patente, però sai, con questa roba a pensioni che era attaccata esternamente, lui avevo comprato il faccio e l'avevo messo da una parte, ma c'era il battistone, andava facendo il suo peso, per la quartiere esterna era stato messo da una parte, giusto, però non è che non era volato né nulla, capito? Adesso mi è venuta la nostalgia, mia moglie sto sempre cercando sul computer per comprarlo, perché non spenderò molto, però è a trovarla la roba. È positivo, positivo. Il tasto Metter, cosa fa il Metter, il tasto? Sarà quello, come si chiama, dello Smitter, sicuramente. Essere Metter. Ecco, sì, bravo, è tolto le cose delle... non si vedeva il segnale dello Smitter. Sì, poi mi era capitato un president nel 1980, anche quello è stato dato a prestito, non è stato un preside, non mi ricordo che il PBR, mi sembra una cosa del genere, era una figata come apparecchio lì, allora 40 canali ce ne erano pochi, diciamo anche quello lì era stato dato, e capito, poi non mi piace andare a richiederlo indietro, e non ho tutto a fare apparati, però adesso c'ho quella roba lì, in testa, perché lo so come c'è, tutti i rompiani della Marcucci dell'epoca e lo vedo dalla carta con quello, quindi mi viene la nostalgia di tutto questo traffico, perché minacciavo e quando suocera. Dobbiamo scendere giù, troppo no. Anche se non ho fatto niente, poi mi prende la stanchezza, non ne ho voglia, capito? Ma chiama, così faccio un salto a prenderlo e portarlo su a staffa e via. Dai, mi ha fatto piacere, dai, Gianni, fare una chiacchierata, dai. Ce ne siamo per voi, ci sarò 2 o 3 ore, no, non è che ci sono da poi, sono 3 ore buone qua in radio parlando con altri. Dai, io ti saluto Gianni, dai, mi ha fatto molto piacere, dai, fatti buon proseguo della serata che scendo giù a Pronto da recuperare mio figlio, i miei nipotini. Ok, grazie Gigi, allora è stato un piacere anche a me, c'è giusto per salutarci, hai capito io? Ce l'ho sempre accesa la radio, molto molto sono per le giù, però sento chiacchierare, infatti la voce di tua, la voce di Claudio, ma si vede che anche lui si è sentato per qualche da fare, hai capito? Comunque tu rimani acceso, quando qualche uno vuole parlare già. Rispondiamo a tutti di nuovo Gigi, buona fine festa e buon tutto per domani, ciao ciao. No, ciao. Alle stelle, quindi devo stare attento, adesso mi inizio il primo luogo, non ho cazzata la possiamo anche fare. Senza lo so già, Pinucci, tutta la roba nostra è nostrana, hai capito? Non è come la roba ovviamente nostra, vale bene, poi la roba del continente non bisogna uno da fare quello che facciamo noi in Sardegna, hai capito? Tu incontrare l'agnello, capito, queste belle cose, anche la roba che arriva qui, da che va giù bocchetto, una che si bocchetto, ma no, non è allevato come lo alleviamo noi qua, e quindi se fai, diciamo, salsicce da quel capo di bestiame lì non esce, invece qui diciamo è anche il pascolo, tutte le cose che ci permettono di avere una carne più genuina, penso. Io ho visto una trasmissione che non c'è quest'estate, siccome l'estate mi curi con caldo, mi rimango al televisore che sono anche le 4 del mattino, tutta questa roba di macellazione di bufini, quelli che tu importavano che qui va in modo, guarda, vuol venire anche allevata la roba e macellata. Oltre se lo faccio vedere a mia moglie, ho detto, se non è timbrato che la vede lì, se macellata qui non ne mangia più carne. E tutti quanti adesso, tutta Roma moderna, su Marcella, non mi muovete, quindi uno che con questa pistola già, hai capito, facevano tutto a mano, hai capito, invece sono macchinari, ogni cosa da su Riadu e tutte quante queste cose, lo spazio che lo dà pulito, diciamo, sterilizzato, però, hai capito, preferisco sempre la roba a Santiga, mi dice. Il movimento sei? Il movimento sei, se non ci ho detto. Stai uscendo di radio. Attenzione Gianni, Capri 2, mi copri? Gianni, Capri 2. Cercano l'altro giorno e mi sono dimenticato di girarti. Però Giovanni, come ci sentivi già? Bene, sembrava a te, se ci andavo a Clarifer, mi sentivo bene. Toccata, ma non sto uscendo, non mi intendi? Sì. Era di Nissoli. Capino 109, Gianni Capriolo e Luca, buonasera a tutti, benvenuto. Va benito, ciao anche a te, ciao, già avanti. Ciao, Cucciolone. Giuseppe, a te non te l'avevo sentito, ciao. Sei benito, a casa sei. Ehi, l'assistente, sono a casa, va, con quello piccolo. Ehi, vabbè, dai, che ci sono gli altri che devono entrare, là. Dai, Luca. Vedi, sei piccolo, tu piccolo baracchino. Ecco là. Che ben intendo. E beh già. Cos'anno si sta? Così, appena. Aspetta. Avanti Gianni Capri 2 e dopo a Pinocchietto in Moro. Non si compra di due latte, ovvio. Vabbè già, pesca la lo sai. Io mi sono freddo. Negli ultimi due giorni già stava facendo bel tempo, però c'è freddo. Esatto, usci si prende i calamari già, un freddo. Lo so. Già ci stava meglio a casa. Quello sì, ma che ti tappi bene, a voglia. Adesso sono già due anni che non vado a pescare, minchia. Davvero, no, io vado ogni tanto, non dico spesso, ma ogni tanto ci vado. Via, davanti, benito, davanti col baracchino piccolo. Venite, caggiù. Vieni. Oh, mi state chiamando? Via, sto burrando caggiù, tu. No, no, stavo ascoltando poco fa, ma poi mi sono spostato un attimino qua fuori e mi ho sentito adesso. Ma c'è freddo in quella casetta, qui? No, oggi no, ieri sì, oggi no. Sta bene, c'è poca umidità. Va bene, allora se ti metti la stufetta non è, c'è la corrente naturalmente. Volentieri, no, stufetta no. Andrà freddo, va freddo. Me ne aveva buttato dentro casa, almeno stavo al caldo. Cosa riprendi? Cosa riprendi? Vediamo, me ne gano. Non ci mi gana, poi sarà già mancato, ma devo fare la dove uscire e poi tu non la giugana. Manco, ma sogno, ho fermato, c'è tutto, no? E niente, stavo un paio di video già su YouTube, stasera, sempre di velivoli. Ah, sei appassionato brutto. No, io mi stavo guardando un po' di apparecchi, quelli modificati, che torni a bomba, che so, via. Questo uno sembra che scoppi da come modula, c'è un modulatore allucinante. Ehi, no, comunque, se tu guardi, tu scrivi su YouTube e ricordi i carabinieri, e poi scendi, poi sulla tua destra ti trovi un video da 21 minuti, praticamente gli spiegano quando decollano, quanto tempo ci mettono, e più fanno la manutenzione agli elicotteri, quanto tempo ci metto per fare la manutenzione, cioè lo smontano, fanno almeno un pezzo, lo fanno. Beh, devono avere una certa sicurezza in aria, non è che possono volare così. Ma già sono cose belle da vedere. No, gli elicotteri sono sempre piaciuti anche a me. Gli aerei un po' di meno, ma gli elicotteri mi piacciono un bel. Oh, ma non avete sentito quell'altro che non ho trovato ancora? Quello che non hanno ancora ritrovato, il sub. Sì. Quel professore dello scientifico andava a pescare di notte da solo, anche lui, a 60 e passa anni c'ha. Hai visto, abbiamo trovato i piombi e il fucile. Sì, sicuramente si è liberato perché si è trovato in difficoltà. La prima cosa che fai è togli i piombi e butti il fucile. Quando ti senti in difficoltà è così. Come ho fatto io quella volta che dovevo salvare quel tipo che stava negando. Ho buttato tutto quanto, ho tolto i piombi, mi ho buttato il fucile e sono andato a prendere a quello. Poi stava facendo negare a me perché mi buttava la testa sott'acqua. E quello è il panico che lo fa? Quello quando così devi cercare di mobilizzarlo e prenderlo per il collo e tirarlo fuori, lo sai. Lo so, si fa così. ho dovuto destreggiare un po', tant'è vero che c'era mia madre che era in spiaggia, allora ancora viva, ed era una grande nottatrice mia madre, perché ha vissuto Alghero, quindi nottava, faceva certe nottate, siccome soffriva di artrosi non poteva fare il bagno, e mi aveva detto proprio il giorno, ho una voglia di farmi il bagno, non posso farlo, e fatelo, ma no, poi prendo umidità. Quando ha visto la mia difficoltà si è tuffata e l'ha preso lì. Ma con l'ascolto, forse sono io che disturbo. Quasi degni fuga e c'è fuggito. Scappa. Già, ma la differenza l'hai sentita? Via. Eh? La senti la differenza? Mille cose. Apparato. Del tuo? Non sto usando l'altro, se sono un altro apparato. Questa ha leggermente l'eco del... antico, grazie, non va manco usi, è di un'antichità unica. Ah, ma non è molto meglio dell'altro questo, eh? No. pronto a subire. Cazzo, questo qui è il microfono normale. Normale. L'altro è amplificato. La differenza è questa, l'altro microfono dell'altro apparecchio è amplificato. Questo è normale. Normale. Niente, c'è un tappo gown nell'apparecchio per aumentare la modulazione, tipo come fosse un processore, dai. Eia, cappa. No, tu stai dicendo? Ecco, ce l'hai sempre, quindi non lo so, perché con l'altro è uguale. E vabbè, comunque, pensate che sia chiara la radio, poi. Eia, ogni tanto ripeto un pochettino di più. Ecco, è una cosa proprio. Tu stai dicendo, è sempre uguale. Cava. E tu come vai usando quello? Perché questo spinge più dell'altro. Questo qua spinge più dell'altro, del K. Eia. Corrido. Ma questo c'è l'aiutino qua. Ma c'è? L'aiuto. Ah, un grido. E il segnale, vedi come sta andando? Sempre 9:15. E questo qui l'apparato è completo, capito? C'ha tutto, luci blu, frequenzimetro, un po' tutto, ecco, eccetera eccetera. Un apparato. Ma l'eco c'ha un apparato. Baba. E quindi come l'altro? No, l'altro c'ha l'eco, però io stavo usando il microfono con l'eco amplificato e l'avevo annullato dall'apparato. Ah, perché anche l'altro c'ha le stesse cose che a questo qui stai usando tu. KK. Perché anche l'altro c'ha il frequenzimetro. Sì, ma canali in meno. Ah, quello non lo sapevo. Questo ne ha abbastanza, questo qui. A voglia. Qui come estetica è un bel bello questo qua. Una bella estetica, mi ha tirato molto l'estetica, la verità. K, quello lì c'ha dalla A alla F, così? Cava. Allora, già ho capito, dai, è uguale a questo. No, aspetta, non vorrei sbagliarmi perché non le uso al canale alti, quindi devo controllare la verità, non me lo ricordo. Ralac. E ne ha una in più in alto. FGH, ne ha due. F, G, H, due vanno in più in su, c'hai. Non ne uso, io uso solo la M, la M vado massimo qua, e basta. Ecco. Avanti. Ma c'è la lui. Tu, sentito. Ma, ben sentito. Che c'è altro? Io e Benito. Stavo scanalizzando i canali, vi ho sentito, allora sono entrato subito. Siamo venuti qua perché siamo portanti, portantine. Nessuno che vale accompagnati, diceva quello. Ah, siete già. Ebbene, Lucrezia, sei seguito. Ci cattivo duro, va bene, nel bifugiti. No, ti ha chiamato Benito e non hai risposto nulla. Aspetta, io 45. Beh, ma non ho sentito io. Ti ha chiamato su lì, non c'è nessuno. Andava, no. Benito ti ha chiamato Luca, poi ha chiamato anche all'altra persona che c'era. Niente, non ha risposto nessuno. Quindi abbiamo deciso di passare qua, perché così almeno se non c'è questo qui, il canale non rompe le scarpe. Ma cosa è successo già? Niente, stavamo facendo la portante con la musica. Che era musica di degli anni 60. Cari dai. Quindi un bel antiquad burro. Cari dai, gà. E musica era punente. Le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo, ballo il twist. Cari dai. Nananinananana. Mamma mia, gà. La musica mia soffende, gà. Tu, ieri ho visto un gruppo dove ha cantato Manuela e Era il gruppo praticamente di satanati, di quelli che fanno, che sono il gruppo di Satana, una cosa del genere si chiama. Tu devi vedere che musica faceva, no, sbaglia i cani. Poi la musica era roccheggiante, tipo quella che piace a te, però loro erano da vedere solo con i capelli lunghi, li facevano, si abbassavano, li facevano scendere e salire i capelli, guarda. E prima è sana? No, no, sono proprio il gruppo satanico. Di che canta lì? Esatto. Carità, dopo gli anni vizi? Quella è musica. Cosa musica? Chi sei? Musica scoppiata da embriagone, da fatti. Non è certo musica quella lì. Quella sono solo grida e poi non avevano più voce per gridare e cantavano senza voce. Faceva la faccia, sembrava un diavolo, cazzo. Quando gridava sembrava un diavolo. Beh, gente scoppiata, eh. Poi c'avevano il bar, praticamente quando scendevano che non toccava a loro, in terra c'erano il marciapiede, bottiglie di birra, vino, e cominciava a bere. Però non riesce a suonare. Ma ci riescono lo stesso, la musica c'era, dico l'hard rock, tipo hard rock, però davano, cioè no, secondo me non è cantavissimo. Luca, riprima. Roba. Dopo che sto ripescando oggi già, che poi l'altro non è la strada neanche, stavo bene. Ma oggi mi ha abbigliato un po' con la mandronia, la verità, sono uscito stamattina, mi ho fatto un giro e poi me ne sono ritornato a casa. Ho abbigliato la mandronia, mi gioco bucato, perché abbiamo fatto l'albero del presepe stasera, abbiamo finito il presepe, questa mattina abbiamo fatto l'albero, poi sono uscito un po', mi ho fatto un giretto ma piccolo però perché non avevo la sega, poi me ne sono tornato a casa e basta, non ho fatto niente di eccezionale, poi mi volevo prendere la moto a farmi un giro, poi ho detto cosa ci vado a fare, già l'una meno un quarto, tra scoprirla e farla. Uno con i fuochi qua, eh. Sossi. Hanno intervistato a cosa, come si chiama? Fino. Ma è andato? Oggi li facevano. Non lo dovevano fare oggi, Antonio. Alle 21. Li dovevano fare oggi, era il giorno dell'Immacolata. Quale... E poi li facevano anche a suon di musica, oltretutto. Non mi sono dimenticato andare. Chiappa, ancora non l'hanno ancora fatta, alle 21, eh. Buonasera. Ehi, i fuochi a suon di musica fanno latte dolce, perché c'è stato brutto tempo e non li avevano fatti, capito? Adesso li fanno alle 21. E dove? Ehi, dove c'è la stazione del latte dolce lì? Sì, ma dove li fanno cadere? Nel campo, no, dove c'è il campo di lì li fanno il tuvelo di solito. L'altra volta li avevano fatti proprio lì dove c'era il campo. L'oratorio femminile partono sempre. Sicuramente ci siamo anche noi col mezzo antincendio, perché ogni anno ci chiamano. Ma deve essere uno spettacolo a vederle, so che è una cosa bellissima. Sono belli. E fanno pure suon di musica quest'anno, perché detto che, visto e considerato che non sono riusciti a fare la festa del latte dolce perché c'era brutto tempo, allora li hanno rimandati, c'è quale occasione migliore se non per la festa dell'Immacolato. Ragazza, bello, dopo ci rivediamo alla grande, io mi rivedo un studio vicine vicine. Io non è che da già sei gana di andare, sennò un brinco cosa vi vuoi? Non nulla. Vedi, dalle piscine si vede bene bene bene. E guarda, sto qua con la barba, so sei sceso. Devo lasciare bene lui, perché non li ho mai visti questi a suon di musica, ha fatto suon di musica. Pensa anche un amico giù, dalle vicino abita. Più o meno c'è la passata giù. C'è l'oratorio femminile, partono da lì, si vedono molto bene dalle piscine, si vedono. Non ho capito. Fanno lì. Ah, è una cosa, sarà uno spettacolo, vedete. Io qua me li vedo tutto, anche dalla finestra. Ma penso che scenderò, dai. non è la stessa cosa, non so, vedere dalla finestra e vedere dal vero. Vedi proprio partire dal vero. Anche noi a volte andiamo lì alla panoramica, vederle, ma non è la matematica da vedere dal visino. Certo, lo eviti tutto il traffico, eviti gli incidenti, tutto quanto, però non li vedi come li vedi da vicino. No, però a casa mia è pochissimo, è come che sia vicino, eh. Io, insomma, ci sono sempre palazzi e cose che ti impediscono di vedere proprio la partenza, perché a volte ci sono quelli che esplodono in terra e gli altri che sono più alti. Quelli che sono in terra non li vedi. Avanti, vieni. Ma no, io non li ho mai visti da lì, mai. Eppure mia madre non mi ha mai detto niente, che abita dall'altra parte di quella campagna. Eppure, vedi, là ci sono. Noi praticamente andiamo lì alla panoramica a San Francesco, lì. Ogni anno ci andiamo a guardare da lì, perché un anno siamo andati a Monterraso a vederli, ma un casino, un'ora se lo bacini da inchini. Lì ci devo andare presto, anch'io qualche volta ci vado da lì, se no me li salgo sul tetto qua, me li guardo da qua. Oh, ma molte volte noi siamo arrivati presto, eravamo in prima fila, che è brutto. Ma che pure la fottitura che siamo messi tutti dietro gli altri, noi siamo stati gli ultimi. Ma poi Monterraso devi entrare, dove c'è la campagna, il pastore ogni anno apre lì e fa entrare lì. E io entro dove c'è quel viottolo piccolo che si vede. Entro lì sempre, salgo su e arrivo con la macchina sino a punta, brutto. Capito? No, non ho capito, Lofe. Ma tu non passi lì da Monterraso per andare a Fiamma 2000? Dopo c'è il, come si chiama, la cabina dell'Ener. Sulla destra c'è quel terreno. E io mi vado. Ah, no, già entri dentro. Sì, entro e poi vado in fondo. La macchina. E poi gli altri si mettono tutti, siamo messi tutti dietro. Quindi cosa è successo? Che prima sono usciti gli ultimi. E gli ultimi saranno i primi gli ultimi, mi capisci? Ah, vabbè, già, di quello già è vero, ma già è poca la gente, là. Poca, luogo venire, era pieno, però si vedeva un bel bene lì. E no, se la ce l'ho anche io, ti mettevi la sedia e te la vendavi così, e non c'è nessuno perché è in discesa il terreno, anche quelli che si mettono davanti non ti danno fastidio. No, no, si vede bene. Scappa. Comunque anche qua quando fanno la festa, quando fanno i fuochi artificiali, quest'anno non li hanno fatti, ma adesso stasera li fanno per l'Immacolata, è una cosa ben bella. Secondo me sono pure meglio di Siblatamona. Io li ho visti una volta, sono bebiti, ma anche molto. Fanno una festa enorme qua. Cappa, adesso dopo aspettiamo il tocco. Marco con la febbre anche. Cappa, penso che non si vedano da casa tua, no? Lo so anche. Una volta stavo tornando da Cagliari con mia moglie e tutta la famiglia. Stavamo entrando da lì dalla Tenoce e abbiamo visto i fuochi, ci siamo fermati a vedere, malgrado eravamo stanchi, ci siamo fermati, ci sono piaciuti, sono durati più di mezz'ora. No, sono bellissimi. Oggi sono cose belle da vedere, solo che li ho visti mille volte, perché tra servizi e coso, vederli così, tanto per andare a vederli, li ho visti molte volte, sia Alghero, sia... Ce ne sono anche nei paesi molto belli. Poi sono belle. Allora, Ittini, volta che hanno cantato Nomadi, quando la gente se ne stava andando via, che finì tutto lo spettacolo, hanno cominciato i fuochi d'artificio. Cazzo, noi andandocene via e loro esplodendo i fuochi. Hanno fatto la fine serata, hanno fatto una bella cosa. Bella però. Li hanno fatti alla grande, proprio fino a quando tutta la gente si è evacuato, ci sono sempre i fuochi. È bello vedere così, E sono delle buone iniziative. C'è un amico mio per dire che sa tutti i paesi dove ci sono i fuochi d'artificio, quando c'è la festa, tutto là. E si riguarda a tutti e gli piace andare, ci va sempre. Per il vicino se li fa tutti. Chiara. Avanti, dritto sopra che tocca, va. Ehi, così dico. No, quella croce, lo sai, non ho mai visto i fuochi, sono andato alla festa ancora, ma i fuochi proprio, boh, 93, 2 anni. Forse il quarto anno, Quest'anno non ne hanno fatto. Quanto è di più? Più 4 anni. Eravamo ancora noi praticamente lì alla Teloce come sede, e li facevano già, facevamo servizio noi lì, alla chiesa vecchia lì. E allora già buoni 5 anni che non ci fanno. Io mi ricordo, prima li facevano lì alla chiesa vecchia, proprio dove c'è la chiesa piccola. Sempre lì, sempre. E allora non hanno cambiato, vero? Siamo alla propria femminile. Esatto, sì. Avevamo l'antincendio noi, perché loro quando fanno il fuoco artificio ci deve essere sempre un mezzo antincendio, questo si allumina che cosa. Chiappa. Bella cosa. Allora te li hai visti i fuochi? Io sì che li ho visti, più di una volta. Vediamo, adesso vediamo, fuochi con la musica, la verità non li ho mai visti. Vediamo cosa è. Manco io li ho mai visti. Poco fa stavano facendo le prove, ci sentiva un bel forte anche da qua. Che cosa? Musica. Ci sono, è un'inventiva. Cosa inventiva? Ci sono, perché hanno chiuso anche la via lì. Qua già va bene. Che deve essere un'inventiva? Magari che ci siamo sbagliati noi, abbiamo capito male, quello lì. Negativo, perché c'ho il biglietto, c'ho. Perché si barca? No, c'è il bigliettino che dice che ci sono i fuochi, eccetera, eccetera. Ho capito. Propaganda, già. Avanti, il Cristo. Ora per esempio la moto non ne fanno una non ne fanno di queste, perché poi abbiamo avuto due attori, tre o quattro all'anno vanno bene, organizzano, c'è cioè, il no? E solo una all'anno ne fanno, che schifo. No, ma già ci sono cose belle da vedere. Ma di cui un cacchio già. Falle, falle, ci sono nessuno, lei non li vuole sborsare. Che cosa è? Non le volevo sborsare. Se tu vedi a Pordotore tutto quello che fanno d'estate, c'è la stessa dello spettacolo che veramente, guarda, si impegna. Hanno tante di quelle manifestazioni di tipo artistico, tipo teatri lo sassarese, compresi, karaoke in tutti i locali, ma è una cosa che non si crede. E poi fanno schifo. Non c'è organizzazione. L'estate siamo sempre a Polo Torres, perché lì si può andare a vedere, a fare cose, e qua non c'è nulla. Vabbè, si rimane. Hanno fatto diversi spettacoli, io sono andato a vedere anche le commedie sassarese, quella con Mario Olivieri, con la figlia, eccetera. E la sua casa è risata. È fuori capo la figlia. È bravo a recitare. Tipica sassarese con i maniali bianchi. Beh, forse mi sta sotto dal padre, capito? E qua allora, vieni, sedilo, vai lì nella cuccia tua, cammina. E ha finito la busa da gridare. A me piacciono troppo quelle commedie. Quelle commedie sassarese mi fanno troppo ridere. Io l'ho vista anche Mara Murì, l'ho vista a Teatro Verdi. Io ci vado anche a pagamento a vedere. Pagata. Chiamo Mara Murì, è bella, una bella commedia. Fa vincere con il trombata, ma vi sarà? No. Ma come dire di e ce ne sono tante, io mi voglio lì con una trombata. Però lì è Spiga, è il cognato di Marco Spiga, di uno che non so se è lì al teatro. Sicuro, vale. Ciao. Oh già, qua c'è anche Bruno Falchi. Ah sì. Quello è il mio amico. vicino di casa. Ragazzi, io ne ho molti amici che fanno teatro. Ma non vado per quello, vado perché mi piacciono proprio. Adesso ogni tanto scopro qualcuno di recita che manco mi immaginavo. Ne ho visto uno addirittura nell'ultima comedia che ho visto a Paolo Torres, che è una persona serissima, ma di quelle che non dà di confidenza a nessuno, che si era prendendo il teatro. Vabbè, faceva la parte seria anche lì. L'uno gli hanno azzeccato. Ma a me piacciono anche quelle che le ritane, non ti vuota di Dolina, ci sono le guardie. E io non è che lo capisco a Cagliarità, non è la verità. L'ho vista in Sardo, una in provincia che si titolava Savremmina e si stracca di fare la tiracca. Ah, ma era da ridere. Dita che praticamente le donne quando gli uomini tornavano dalla campagna li lavavano i piedi e cose, poi hanno avuto la ribellione, in una stalla si hanno costruito questa sede femminista, preparano i cartelloni, insomma, si in mezzo alla strada, mi resti stacca di fare la tiracca, si a bordo, che ti ha risato. Cosa ci vuole sempre a seguire di andare a vederli, e quando le fanno ne fanno poco e niente. Mio padre a volte gli prestava anche l'attrezzatura e poi gliela riportava naturalmente prima di aprire il laboratorio. Stavano facendo una commedia dove c'era un calzolaio e lui aveva preso il banchetto, tutto quanto, il grembiule, tutto quanto. Tu ti fai una schiera? Sì, certo. Ah, sono belline come commedie. Altre non riesco a seguirle, con le sassaresi proprio mi fate nei gribà. Poi io già lo capisco bene, sassaresi. Mia moglie è un po'... qualche cosa gliela devo tradurre, perché non capisce cosa vuol dire. Ma io già lo capisco bene. Viaggio di guru! Tanto ne dite, tanto ne sicura sui. Fucca. Io lo sto ascoltando già. Non c'è più religione. Cosa è? Erika Antonio, via Giuseppe Masia. Quello ce l'ho visto. A Porto Torres ce l'ho visto quello lì, era il coso. Era al porto. Anche quello lì, Don Drobilanotti va a fare battuta. A me piace molto quando fa il tossico. Ne fare tutti i colori. Basta, tra lui e Benitugolo si sa che scegli. Boh, spinto, ti servo, ok. Ma quali, quelli con l'uomo? Bisogna sbusciare, carico, fa. Ma prima, c'è 600 lire. Spiccioli che ti stressano le tasche. Certo, non glielo tengo a fare tu, una granetta, cara. Grazie, mia storia. Ma se no già, come vi viene nessuno, io stiamo facendo una colletta per essere una birra e ci la beviamo assieme. Che ne sei tu? Se una volta belli capelli te ne lo conosci. E a voi, hai visto come è cambiato adesso? O l'altro? Ah, non mi viene il nome adesso l'altro. No, belli capelli lo conosco anche perché l'ho portato in ambulanza molte volte. Una volta l'abbiamo portato e erano volati di più che abbiamo dovuto disinfettare tutto. Poi una volta mi ha fermato e mi ha detto, ecco, boppa, allora mi dai se fosse tu Franchi, che se no la bicicletta cammina mi piglia una birra e rifosso l'ubbiero. Eia, lo dicevo sempre. Molte volte se ne andava lì su in via Mercato dove c'è il circolo di cose, non ti chiama. Ma lui era attore, l'ultra, si faceva in vivo. E io lo trovavo da tutte le parti, Piazza Castello, c'è più in giro. Adesso non c'è più in giro, adesso è tutto bello cambiato e tutto. E magari gli è passato l'esaurimento, cosa ne so, pare che era mezzo esaurito. No, ma di testa non c'era molto, adesso non mi viene il nome dell'altro, tu ricordi il caso di esempio che passa in giro in Piazza d'Italia? Ah! Danilo adesso è diventato tranquillo, è passato tutta la cosa c'era in testa. Sai che se la salvato dagli acidi, come fa? Si sedeva, si appollaiava, io non so come faceva. Allora la panchina, tu ce l'hai presente, una spaliera, metteva i piedi sulla penultima stecca e si appollaiava sulla stecca sull'ultima, no? si sedeva. Con i piedi, la penultima stecca, con l'altra piegava le gambe in una maniera allucinante. Poi faceva sempre gli scandali alla ragazza, quella lì era una bella ragazza con gli occhi chiari che ci aveva, no? Faceva gli scandali, tu conosci la polizia, ti vendi dal poliziotto e dice vieni qua che ti do io una cosa bella, adesso che prima di Riccardo tutti guardando in piazza. A parte anche quando si metteva a parlare da solo, si faceva tutti i discorsi, si incazzava, veramente. Ehi, serenacido. Non è possibile proprio che sia guarito di testa, perché gli acidi cancellano le cellule cerebrali, sono le uniche cellule che non ricrescono nel nostro corpo, figurati. Si faceva gli acidi quello là. Si faceva gli acidi, per non farlo scoprire che c'erano gli acidi, non mi ricordo quanti ne aveva, se l'avevano messi tutti in bocca e se ne erano angugliati. Per un conto se quasi sano, magari si è rimesso come... sta zitto, si metteva le cuffie, te lo ricordo. Che te lo ricordo? Non vestiva bene, non te lo ricordo come vestiva, tutt'altro. Comunque non c'è più in giro, l'ha passato tutto. Chiamavano in banana. Molte volte non gli hai chiesto quando si metteva a contare le mattone nelle piazze d'Italia, gli davanti una via puntata. No. Una banana. E te lo ricordi tu? Che cazzo me lo ricordo? Passava sempre vicino a casa. Come cuffie, la sveglia, no, la radio, e mi addendi. Ehi, è magro ma, è Franco Maciste, ve lo ricordate? Ehi, via. No. Però è morto. Anche, è coso, che l'ho visto da poco, non ti chiama, che faceva, imitava, ma, pigliava in via, la mia mocca e si bruciava sempre. Guarda com'è bello. C'era uno, come si chiama, aspetta, l'avevano ricoverato all'ospedale perché l'avevano anche picchiato, si metteva con la chitarra senza accordo e faceva finta di suonarla, poi quando ha visto questa ragazza legge dalla Nuova Sardegna, ha detto, questa qui è la Nuova Sardegna e questa è l'Unione Sarda, si è toccato davanti. Cantava uno da sola, ti vorrei per farne 4-5 sì. Mia bucaccione. Quello era uno di quelli porno. Per lo stare era già. Mangia fuoco, come ti chiamava? Rangazzo, una cosa del genere. C'era la bicicletta, c'era attaccato dietro una specie di tricicolo a traino sempre. No, quello non lo conosco, Penso che andava a piedi. Una volta mi ricordo che... c'erano questi due, lei stava mangiando la pizza, anche lui stava mangiando la pizza e lui ha fatto buona gaffa e lui, il ragazzo si è girato e gli ha detto ma non c'è gallà e lui gli ha detto che coglione siamo di ballacci era pazzo, una volta avevo portato all'ospedale quando ho ricoverato in traumatologia l'avevano di tutto canto gribbato il fermiere mi ha detto già me la dai una mano. A che cosa? Lavare a questo qua, cazzo, che c'ha la rogna addosso, c'ha le cazze che gliele abbiamo tutte e stanno dritte in piedi. Mi lavato con una bomba, come ti si batte con i buchi. Allora? Poi l'hanno messo questo letto, gli hanno messo le sovrasponde per non scendere, no? Ha brincato, il cagliute si è fatto male. Ah, mi c'è ripetare, che l'ospedale, che cos'era? Tantissima annunziata, traumatologia, invece avevo la gamba ingessata, ma già potevo fare qualcosa. Per carità, guarda. E vedi, una volta ne navigato uno, qui c'era il dito nel ghiaccio, col dito tagliato in due, questa infermiera, come l'ha vista, è andata in bagno, ha detto, questa qua sta sentendo male, la giù bicicletta che si è svenuta, per poco non cade in terra, l'ho fatto interpretare per tenerla, ho fatto svenire l'infermiera. Poteva essere che era nuova, poi per rianimarla ci abbiamo messo meglio, abbiamo alzato le gambe, tutto tanto, cazzo, si riprendeva, ha chiamato il dottore. abbiamo preso, vabbè, lasciatela così già, si riprende piano piano, sciacquateli un po' la faccia, cosa, abbiamo sciacquato la faccia e poi si è ripresa, si è risvegliata. Era bianca, bianca, bianca. No, perché, cioè, piano piano ti viene l'abitudine. E magari era una di quelle ossa, di quelle nuove, capito? Ma, cioè, il caldo se lo fanno la prima, non mi capito, quello ti voglio dire. Perché la volta che l'abbiamo portato, vabbè, non so se sia il caso di raccontarlo qua, perché è un servizio che abbiamo fatto in ambulanza, vabbè, comunque non me ne frega niente. Un uomo cieco praticamente è stato abbandonato a casa sua, lui usciva, si sedeva nella sedia sempre in una casa di campagna, c'erano altre case vicine attaccate però, il figlio è partito fuori, l'ha lasciato così, l'abbiamo trovato, ci hanno chiamato i carabinieri perché i vicini di casa non lo vedevano più che si sedeva fuori, ci hanno chiamato, abbiamo sfondato la porta, siamo entrati, l'abbiamo trovato con le scatole della carne cimental in terra, già te per metà, a volte sai come lasciare residui in carne, pieno di vermi, e i vermi li avevano bucato, gli ho alzato i pantaloni perché c'era una puzza tremenda, lui era vivo, aveva un buco nel calcagno con tutte le larve e i vermi dentro, si vedevano le ossa. Poverino. Sono stato anche dietro l'orecchio, io sono stato 2 giorni che non mangiavo, il servizio è proprio così, me ne sono capitati tanti, ma così non l'avevo mai visto, l'ho provato al pronto soccorso, c'era la dottoressa e mi ha detto, per carità, in tanti anni di servizio non avevo mai visto una cosa simile, quelle sono larve di mosca sarcofaga, quelle che vanno e si mostrano. Mamma mia. Problemi lunghi, di quelli fini fini e lunghi. I più brutti. Carità. Cosa così brutta non l'avevo mai vista in vita mia. Però sono riuscito a superarlo lo stesso, perché ho visto una persona in difficoltà e cazzo guarda, ci abbiamo buttato tutto, lenzuola, tutto quello che c'era, ci abbiamo tutto buttato via. Vabbè, non si sa mai a che cosa. E tra l'altro l'abbiamo segnalato all'Unione Italiana Cechi perché era stato abbandonato dal figlio, capito? Se ne è partito fuori. Bravo, bravo, Quindi, l'ho ricoverato nell'istituto di Cechi dopo. Più da un lato, ciao, e si mi è andato. Sì, questo qui era non vedente, tra l'altro, ce la faceva giusto giusto a sedersi nella sedia fuori, non la vedevano uscire, allora si sono preoccupati vicino, hanno avvisato i carabinieri anche perché poi hanno sentito odore di morto, di fiato, poi quel carabinieri ha buttato tanto un po' di deodorante, ha peggiorato la situazione. Vabbè, a chi sa lui non mi sa tutto. Era vomitevole l'odore, credi. Non so. Vuoi arrivare? Ok. Vabbè. Ce ne sono casi. E quel tipo aveva scoppiato vicino a casa già. Io non lo vedevamo più. Giorni, forse una settimana e più. Cioè, le mattonelle bianche, davanti erano bianche, sono diventate nere. Cioè, quando tu mettevi i piedi sotto di me, si scivolavano i piedi. L'avevo trovato in camera da letto, scoppiato. Tutto pieno di vermi in camera da letto. Mamma mia, che cosa fa? Sicuramente era l'estate. Sì, l'estate era. Praticamente, sai, i carabinieri controllano la polizia. Hanno trovato sotto materasso 5 milioni di contanti, in più un malato di spiccioli. La polizia. Vedono se la goduti, se la rimuni di banuta. Cioè, come la rimuni? Come la intendi a buonanotte, danza. Infatti, ti metti tanti problemi da voi bagosi. Ma vabbè, dici di godere, che vabbè, finché è gente che ti ha testa bene, non c'è problema, si può fare. Però se è gente che non ti sta bene, no, più ti rimani in dubbio. Poi, e comunque se ne vedono un bene. Questo è un caso così, non mi era mai capitato, dico la verità. Quello lì è stata una cosa che mi ha proprio segnato. Era vomitevole l'odore, non si poteva stare. Non si immagina. E ci abbiamo messo le mascherine per entrare, fatti un conto. È normale, capo, ti rientri in Russia. Allora, non si può entrare. c'è una puta di roba guasta, più è morto, guarda ti dico, non si buca, ma tutti i domani neanche era la porta, cioè all'entrata. Come non ho preso? Chi ha abbigliato? Mamma mia, chissà come non fa il balai. Che becchini già? L'hanno imposto dentro la bara direttamente. Ma sono trovato cacchio di sacco, di quel sacco che c'hanno loro, però mi sono trovato dentro un di ferro, che hanno loro, una cicata, un barella. E quel sacco lì mi ricorda uno che ho fatto a Sindoli, un ragazzo che si è impiccato. Ma dopo l'ho dovuto anche scendere, l'ho dovuto aiutare io, l'agenzia funebre a portarlo giù. Via. Troppo la vita è un casino. La gente lì si dispera, cazzo, per niente, non so, uno non ce la fa più, cosa fa già? Tu non aiuti, qua tu non aiuta, cosa fa? Senza cosa deve fare? Si è ammazzato, non si vuole sapere. Lo so, ma la speranza c'è sempre, c'è sempre una speranza che trovi un lavoro, che fa qualche cosa. Ma vabbè che anche chi lavora non ti crede che viva della mambaggia. Io dico questo, capita magari io non trovo lavoro, cioè un punto d'appoggio c'è sempre, ci sono gli assistenti sociali, molte volte anche loro ti aiutano. E perché magari dicono che lui, magari prima stavi bene, c'hai una macchina bella, cosa, e ti dico, ehi, sto girando con quella macchina, cavolo, vieni qua a chiedere i soldi. Sì, vabbè, ma tu mi dici, Augusti, e tu mi vedi una testa. Che cosa c'è, Luca? C'è la Caritas, ci sono le vicine anziane, ce ne sono di aiuti. Io l'altro giorno sono passato vicino dove c'era la polizia prima, mamma mia. C'era una fila astronomica, che aspettava a dargli la roba. Ma di Silvana, per forza, devo aiutare, già. Silvana è cosa? Poi sua lettera non ne ha bisogno, Secondo me dovrebbero fare come fanno in Germania. Che ti danno l'aiuto, ti trovano anche il lavoro, ti trovano. Quindi ti danno quasi uno stipendio per vivere, devi vivere dignitosamente anche se non stai lavorando, però poi ti trovano il lavoro, se lo rifiuti non ti chiamano i bimbi. Chiaro, secondo me è la cosa più giusta, perché almeno tutti lavorano. Ma in Germania già c'è, anche se ha diminuito c'è più lavoro, cavolo, che qua. Anche se qui ha diminuito, c'è l'Angelino, un amico mio in Germania, dice che lasciava un posto, il giorno dopo trovava l'altro, non c'erano problemi. Nelle vetrine dei negozi c'era scritto cercasi pizzaiolo, cercasi cameriere, cercasi tutto fare. E lui trovava lavoro dovunque, ha detto guardi non c'è problema, esci da un posto e tira l'altro, anche nello stesso giorno l'ho trovato. Chiappa, è così, E almeno la persona però magna, cioè l'aiuta lo Stato, invece qua ci sono le associazioni che fanno aiutare la gente, ma ci rendiamo conto come stiamo vivendo, e quella è la differenza, che qua ci sono le associazioni e lo Stato se ne frega, cioè, no, non te lo do un aiuto, cioè se te lo dà sei proprio trovato di rubri. Invece là è proprio lo Stato che ti dà, prende, ti dà il sud, appena che ti cercano un lavoro e vai a lavorare. Invece qua è una politica sbagliata, ti mangiano. E comunque anche là è calato molto il lavoro, perché me l'hanno detto degli amici che c'erano, se ne sono venuti qui a lavorare. Io avevo un amico che lavorava a Lacci, in Germania. Stava bene, come stipendio, come tutti. Parlava il tedesco tranquillamente, c'era un bel di anni già. Poi ha trovato la ragazza qua e se ne è venuto qui a lavorare. Adesso non so se se ne sia ripartito in Germania, perché era senza lavoro ultimamente, mi aveva chiesto a me se c'era qualche cosa da noi. Lui fa l'autista e c'ha patenti grosse, guida pullman, guida camion, tutto quanto ha fatto. Dumacco, che uno va già. Quando c'è la posizione, oggigiorno, se non te la tieni, sei buttito, sei fregato veramente. Ma in Germania è capace che se va lo trova subito, è lo stesso, non è che lui ha lavorato in tanti posti, ha fatto l'autista di Pullman, ha lavorato a Lacci, ha fatto l'autotrenista. Chiappa, soprattutto qua, anche con le macchine, è un grandissimo furto, furto autorizzato come quello, no? Che non esiste. Là, quando paghi l'assicurazione, la paghi una e basta, e c'è compreso, pollo e assicurazione, tutto compreso. Invece no, che gli anni di più fa poco di Marasciose. Tanto lui c'aveva la Semica, c'aveva le ruote in lega, prima di venire qua si cambiava le ruote, si metteva quelle normali perché qua è tutta fussi, se no se le rovinava. Vabbè, ma le luci sono anche diverse, sono diverse perché là anche ne paghi una l'assicurazione, pure se ne hai due di macchine che sono le tue, cioè ne paghi una azzurra e basta. E poi paghi poi l'assicurazione come avrebbero dovuto fare qua, tutti quanti avrebbero fatto quella cosa lì, tutti l'avrebbero pagato, invece no, c'è uno che si deve pagare tanti dinari di bolla, non esiste, cioè c'è una manica di ladrone. Io sono, ma si sa che bisogna pagarlo, bisogna farlo, a meno che non si dimentichi. Chiappa. Ma è sbagliata la politica, perché tu nell'assicurazione metti ciò, almeno tutti lo pagherebbero, invece no, e non vi accavo magna di più, ma qua lasciamo perdere, da poi per ogni macchina deve essere, ma c'è gallai. Brico! Avanti, Peppo! Grazie, se no ero costretto a mettervi la portante, attenzione! Noi per quello ti abbiamo fatto entrare, perché sapevamo che ci mettevi la portata. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, Ciao Giuseppe, ciao. Siamo io, Benito, Luca e Antoine. Vai per chi vuoi. Ciao Antonio, Luca e Benito, Giuseppe da questa parte. Riprendete voi. Giuseppe, mi hai sentito? Buonasera, buonasera. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe! Buonasera a tutti, belli e brutti, sempre di soldi state parlando però, ma non siete mai contenti? E tu contento se devi fare lo state noi? Oh, mangi questa minestra o salti la finestra, ci fosse un modo per poterle cambiare le cose, però rirrappano poi monotami. Non lo dico perché sennò magari se mi sentono mi possono arrestare, però un modo già c'è. Va bene, lo dico io, basta ammazzarli tutti dal primo all'ultimo. Esatto. Tanto non ce n'è uno che vale, altro che serve, come salgono al potere tutti si mangiano la fetta più grande. Ma che poi guarda, io stavo ascoltando il telegiornale all'ora di pranzo. Noi, in fondo, parlo di noi italiani, mi isole comprese, stiamo lì, ma quello, ma quell'altro, ma per carità, i nostri nipopiura, sapigli e cose, però abbiamo tutto. Però non facciamo niente per cambiare le cose, ma non possiamo fare nulla, almeno che facciamo una guerra civile. Però segui a Giuseppe, noi siamo i primi a lamentarci, no? Però abbiamo tutto Gianni, abbiamo tutto, nostri figli, prendi l'esempio anche dei nostri figli, il telefonino, cava la PlayStation, cava ghetto, siamo sempre pegni, cate, però il coso non ce lo facciamo mancare, senza parlare di televisioni ultrapiatte adesso a LED, non più a plasma o LCD o come balla erano. Io ne ho una LCD, l'ho comprata con i punti della Esso. L'altra che c'è è una Sony che va benissimo, stereofonica e tutto quanto, ma è di quelle vecchio tipo. Non ne ho di innovazioni di questo genere. E per i figli mi voto in quattro perché i figli li voglio accontentare, c'è poco da fare. Quello lì per me è un pezzo gore. Ecco perché dico, sì, ci lamentiamo, siamo una vita che ci stiamo lamentando, però in fondo se andiamo a cercare proprio per bene, cioè a guardare bene, non stiamo poi così male, mio già. No, male no, ma ti dà fastidio che, per dire, questi politici abbiano uno stipendio tra i 24 e 40 milioni di stipendio al mese. Quando tu prendi un misero stipendio devi cercare di far quadrare i conti a fine mese. Quello che dà fastidio, capito? Se fossero un po' divisi i soldi, dare un tanto a loro, un tanto giusto, ammetti anche 3.000 euro, ma cavolo, 24.000 euro come minimo al mese, sono un po' troppe, mi sembra. Sì, su quello sono perfettamente d'accordo, però purtroppo oramai è una regola ben precisa che gli abbiamo dato noi a questi signori, perché il discorso che ho fatto sempre io, noi non so quanti milioni siamo qui in Italia di persone contro un pugno di delinquenti che potremmo prendere e buttare fuori a calci nel sedere, ma dico nel sedere proprio la parola bella e buona, è proprio a calci nel sedere e rimettere una nuova classe politica fatta di giovani, di gente che lavora. Purtroppo nessuno l'ha mai fatto. Mi sa che non abbiamo il potere per farlo, non la forza, ma il potere diciamo a livello di cose di legge, possiamo fare certe cose. Noi siamo ingabbiati perché loro decidono su di noi, non puoi, noi ci dobbiamo stare zitti. Non possiamo, anche se parliamo in vano, perché noi diciamo la nostra sì, però le parole volano in aria, loro continuano a beccarsi su. Oh già, è un discorso che se da continuare, guarda, bisognerebbe entrare nello specifico, cioè entrare in politica, entrare a parlare di questo governo, dire chi l'ha votato, perché stranamente questo governo sta governando, però a quanto pare, io ho fatto un sondaggio, no, e questo governo sta governando, però nessuno l'ha votato. Se tu vai a chiedere in giro, no, la stragrande maggioranza delle persone questo governo non l'ha votato. È perché sentono in colpa che l'ha votato, normale. Benito, avanti. È positivo, dai. Comunque, se volete, armiamoci al partito, io sto già caricando. L'occhio lui. Oh, non si sa mai, almeno lo stomaco ce lo riempiamo, Benito, si fin mai. Ne ho due, se ne manca qualcuno. Ragazza, avanti Lucchetto. Antonio. Tutti a Rovungo sono andati. Le cose sono due, o non sto uscendo di radio io, o non c'è più nessuno alla radio. Sì, siamo. Tu sei anche troppo forte, Giuseppe. Avanti, Antonio. Ragazza, io so solo una cosa. Che mi sto rompendo il culo per queste cicche lì. Qua non voglio dire parolacce, io so solo quello. Ma va a pagare le tasse, va a pagare le giudicanti di Marazzotti che raccompagna. So solo quello. Perché a me non mi hanno mai migliorato, anzi sono sempre a chi si divende. In qualche maniera si campa. È quello lì che so solo, che mi devo fare il culo la mattina alla sera. E questo ho detto tutto. A proposito di tasse, di tissi e di tossi, prepara, mi fai una registrazione proprio di 20 secondi e ti faccio un passaggio e me la fai risentire. Questa va per il telefono. Cappa di Rosmetro e di Rogero. Oh, una cosa voglio dire, non ci sono soldi e se vogliono riandare a votare, ma tu lo sai quanto spendono adesso di nuovo? Un bene di nato, guarda, io te lo posso dire, quando eravamo in lire si spendevano dai 3 ai 4 miliardi. E vogliono rifare le votazioni, e non sono dirampati. No, ma le votazioni non ci arriviamo, non ti preoccupare, perché l'hanno già messo in conto quello che si va incontro. Adesso devono fare un governo tecnico. Speriamo, vogliamo che la paglia. Anche perché ci sono alcune cosette che vanno ancora portate a termine di quello che aveva promesso il nostro grande capo. Tutti i plottoni di soldati è ora di ritirarli da dove sono. Cosa vi vanno? Applicatine le munizioni, chi su chi dà? E già ci aumentano le tasse per quello. Appunto, per quello. la loro smissione l'hanno già fatta, e ci hanno pianto anche troppe famiglie, quindi e possono anche ritirare. Giuseppe, sono pronto. Giuseppe. Eia, dimmi. Pronto. Eia, attenzione bombolino, se vai copiando Giuseppe fammi un controllo radio. Kappa. Oh yeah. Qua, fatto. Vai. Insomma, da controllare dov'è. Fate, parlate. La pagava. E non ti fidi di me, Giuseppe, ti ho detto che sei anche troppo forte, qua a casa mia stai arrivando una bomboletta. No, mi fido, è che io non mi sento qua, e non ho parlato, hai capito? Voglio vedere un pochino come sto uscendo. Ma anche tu, ce l'hai il eco, prova a farla tu una registrazione pure. Che bello. No, io non ce l'ho qua, sono cucato. Non posso farmela perché... Ma io mi sento come esco, lo so. Ah, tu sei più forte comunque di Giuseppe. Forte sono, ma di radio di Santiago. Anche di quello. Ti sto uscendo col minimo di watt. Ecco qua. L'ho andato, che c'è anche... Positivo, vai, anda bene, non ci sta assolutamente problema, va benissimo così. E giusto, c'è benissimo, più chiaro di così si muore, Giuseppe. Sì, diciamo che va bene, dai, potrebbe andare meglio, però già va bene. Penso che alimentatore stai usando. È sempre lo stesso, già, però sto uscendo con quello che non ha bisogno dell'alimentatore. Di meno. Ma è attaccato adesso? Sì, è attaccato. Alternato. Lo so, però fa pazienza. Fa capo. Vabbè, un alimentatore. Lo sai che l'indirizzo è cambiato di quella storia là, io l'ho mandato all'indirizzo vecchio, porca vacca. Come sarebbe a dire cambiato? Non è più Maurizio Pavanello, ma è Desiree, non so come, è stato lì adesso. Sì, anda bene, sempre qualcosa deve essere successo lì allora. Mamma mia. È stato lì, lui non appare più. È roba di coronamene. Non lo so, però io ho spedito l'alimentatore che era difettoso, anche l'ho spedito al solito indirizzo, e invece non è più intestato a lui, ma è a lì adesso. Vabbè, ma tanto lì oramai, e chi consegna la roba, guarda, ci passerà anche qualche mese prima che decada del tutto la cosa, perché noi quando eravamo gruppo Fontana e poi siamo passati Sengobene, e c'è gente che da continente manda ancora i cose, se è stato gruppo Fontana, eppure c'è i postini che i corrieri li portano da noi. Speriamo bene, io riprovo a telefonare, adesso riattacco da domani, perché non stanno più rispondendo. Non stanno più rispondendo. Ci ho provato anche oggi, con la speranza, ho detto magari i negozi sono aperti, perché se è festa i negozi aprono. Luca, sei andato all'inaugurazione della Coppa che vi abbandona? Luca, non c'è. Giuseppe, sono andato, non si poteva entrare dalla gente che c'era, pieno, zeppo. I cosi commessi e cose stavano correndo avanti e indietro con la merce. Eia, però dite che non mi so di nai, giro. Tra due camion, tre assi e poi un altro dietro, scaricando merce. Facevano scaricandola, mettendola e ricomprando. Bene, ritorniamo al discorso poco fa, e tutti ci lamentiamo, tutti facciamo e tutti cosa, però già per uscire per comprare e quelli per quelle cose già ci sono. Vabbè, ma la roba da mangiare è roba necessaria, oggi c'era anche l'offerta, non so se tu lo sai, da oggi è ricominciata l'offerta, quindi lui ha approfittato il giorno dell'offerta e c'era molta cosa in offerta, c'erano le orate, le cozze, i calamari in pescheria, poi c'era un sacco di roba in offerta come il prosciutto crudo, ci sono tanti prodotti in offerta. Sì, ma ci credo, però io ho notato una cosa, che con la storia dei Leopardi poi andiamo a incasinarci il carrello di roba che poi effettivamente a casa non ne abbiamo bisogno. No, io prendo la roba che mi necessita e butto. L'altro giorno per dire sono andato a fare la spesa, ho preso solo roba in offerta. E la signorina mi ha detto, cos'è, se la roba in offerta sta comprando? Sì. Vedi, tu lo fai quel discorso lì, però c'è la stragrande, la maggioranza della gente che con la scusa delle offerte poi magari arrivi a casa e dici, seguito, e chi taglio, e chi taglio ancora, e il coso dell'offerta poi decade perché ti sei riempito la casa di roba che poi non usi. C'è lo sterilante in offerta. Oh, scusate, ma... Fatemi. Ehi, che mi ha chiamato mia moglie. Io faccio QRT. Ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Giuseppe. Alla prossima, buon proseguimento di serata. Ciao a tutti. Ciao, vedi, ma ti porto un rumore da sottofondo, una cosa del genere. Non so se te l'hanno detto. Vabbè, ci salutiamo adesso. Buon lavoro per domani e buon QRT, dai. Eia, cappa, ho capito che cos'è, era un vento. Sì, probabilmente sì. Buona serata, dai, ci risentiamo. Ciao Benì, buona carica e buon tutto, ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Giuseppe, per quanto riguarda l'S9, ho letto un articolo, più articoli, questo sito di CP dove parlava dell'S9, dicevano tutti che c'ha, l'unico difetto che c'ha è il frequenzimetro che parte, che dà problemi, che questo e quell'altro. Cappa, confermo, l'ho letto stasera quell'articolo in internet. Anche perché ho digitato frequentimetro magnum S9 e al posto del frequentimetro ti dà tutto l'apparecchio. È vero, ci ho provato anche io stasera, proprio per quello che stavo per dire, sono andato a cercarlo e invece niente. Sì, addirittura ho letto quell'articolo di quel tipo che si lamentava dei finali. Quello non l'ho letto, io ho letto solo del frequenzimetro, gli hanno chiesto se si poteva staccare l'impianto elettrico del frequenzimetro. Sì, quello l'ho letto e a quanto pare si può mettere un interruttore per staccarlo, però bisogna vedere quanto ne vale la pena, perché poi se sta con le frequenze di metro spento è anche brutto quell'apparecchio. Beh, proprio quello che gli fa, che gli dà non so che di chance. Lo so, adesso guarda, prima di tutto bisogna vedere se ce lo restituiscono. Sia il mio che il tuo. Si riesce più a rintracciarli, ma se non rispondono fra... Io aspetto 5-6 giorni, vado dai carabinieri e faccio subito la denuncia. Vediamo un pochettino. Intanto se tutti dentro state a me. Sto per me, dai. Ce la risentiamo dopo, se... Ehi, dove saranno dei fuochi? No, a Maticara. Alle 9 Giuseppe ci sono i fuochi a suono di musica la Tedosa. Oh, cavolo. Ehi, qui a casa invece mi sa che a suono di musica c'è il letto stanotte alle 9. Così è. cava. Domani si trapacca. È giusto anche che sia così, dai. Certo, bisogna andarci anche a cuor sereno, perché una cosa è finché è venerdì per me, sai, e sabato so che non lavoro, così per voi sabato, perché sapete che domenica non si lavora, però per quanto riguarda me al lavoro è bene andarci belli sereni, tranquilli e lucidi soprattutto. Mia rubriria. Vabbè, vedo se convento anche a me, mi passa qualche cosa. Vado a mandicare anch'io, poi ci sentiamo magari se ci siete, se no vi auguro buonanotte. KK, dai, faccio carica anch'io e vediamo di risentirci presto, dai. Buona carica a tutti, doppio room, Luca, Antonio, e ci risentiamo magari dopo, dai. Sì, sentiamoci sul 21 direttamente, ciao ciao. Positivo, ciao ciao. Giuseppe, ciao Gianna, più tardi. Sì, sono la prossima, ciao, ciao ciao. Ciao. Ciao Luca, ci sentiamo dopo, magari sul 21. Positivo e Cavarocci.